Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I tre moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Un rumore precipitoso di passi rimbombò sulla scala. La porta si aprì con fracasso e il malcapitato merciaio si lanciò nella stanza. «Ah, signori!» esclamò. «Salvatemi, in nome del cielo, salvatemi! Ci sono quattro uomini che vengono ad arrestarmi! Salvatemi, salvatemi!» Porthos e Aramis si alzarono. «Un momento!» esclamò D'Artagnan, facendo loro cenno di rimettere nel fodero le spade già per metà sguainate. «Un momento! Qui non ci vuole coraggio, ma prudenza!» «Pure!» esclamò Porthos. «Non lasceremo!» «Lasciate fare a D'Artagnan!» disse Athos. «Lo ripeto, è il cervello di tutti noi!» E io, per mio conto, dichiaro che gli obbedisco. Fa quel che vuoi, D'Artagnan. In quel momento comparvero alla porta dell'anticamera le quattro guardie e, vedendo quattro moschettieri ritti in piedi con la spada al fianco, non osarono farsi avanti. «Entrate, signori, entrate!» gridò D'Artagnan. «Qui siete in casa mia e siamo tutti fedeli servitori del re e del cardinale. Allora, signori, non vi opporrete se noi eseguiremo gli ordini ricevuti», chiese colui che sembrava il capo del drappello. «Al contrario, signori, e all'occorrenza vi daremo manforte». «Che cosa dice mai?» borbottò Porthos. «Sei uno sciocco», fece Athos. «Zitto!» «Ma mi avete promesso», disse sottovoce il disgraziato merciaio. «Non possiamo salvarvi che rimanendo liberi», rispose in fretta e piano D'Artagnan. «Se abbiamo l'aria di difendervi, ci arrestano con voi». «Venite, signori, venite», disse forte D'Artagnan. «Non ho alcun motivo di difendere il signore. L'ho veduto oggi per la prima volta e in quale occasione ve lo dirà lui stesso. È venuto a chiedermi la pigione». «È vero, monsieur Bonacieux, rispondete». «È la pura verità», esclamò il merciaio. «Ma il signore non vi dice...» «Non una parola su di me». «Non una parola sui miei amici, soprattutto non una parola sulla regina, o rovinerete tutti quanti senza salvarvi. Avanti, avanti, signori, portate via quest'uomo!» Gli sbirri si profusero in ringraziamenti e condussero via la preda. Mentre stavano scendendo, D'Artagnan batté la mano sulla spalla del capo. «Beviamo alla vostra salute e voi alla mia», gli disse riempiendo due bicchieri di Beaugency fornitogli dalla liberalità di Bonacieux. «Sarà un grande onore per me», rispose il capo degli sbirri, «e accetto con riconoscenza». «Allora alla vostra, monsieur... come vi chiamate?» «Boisrenard, monsieur Boisrenard». «Alla vostra, signor gentiluomo, come vi chiamate, per piacere?» «D'Artagnan, alla vostra, monsieur D'Artagnan». «E al di sopra di tutte», esclamò D'Artagnan, quasi trasportato dall'entusiasmo, «a quella del re e del cardinale». Forse il capo degli sbirri avrebbe dubitato della sincerità di D'Artagnan se il vino fosse stato cattivo, ma era buono e ne fu convinto. «Ma che razza di fellonia avete commessa?» disse Porthos quando Boisrenard ebbe raggiunto i compagni e i quattro amici si ritrovarono soli. «Bella roba! Quattro moschettieri lasciare arrestare in loro presenza un disgraziato che invoca aiuto, un gentiluomo brindare con uno sbirro!» «Porthos», disse Aramis, «Athos ti ha già avvertito che eri uno sciocco e io mi associo al suo parere. D'Artagnan, sei un grand'uomo e quando sarai al posto di Monsieur de Tréville chiedo la tua protezione per ottenere un'abbazia». «Questa poi non mi ci raccapezzo», fece Porthos. «E adesso, signori», disse D'Artagnan senza darsi la pena di spiegare a Porthos il suo comportamento, «tutti per uno, uno per tutti. È il nostro motto, vero?» «Tuttavia», obiettò Porthos, «stendi la mano e giura!» esclamarono insieme Athos e Aramis. Vinto dall'esempio, imprecando sottovoce, Porthos tese la mano. I quattro amici ripeterono insieme la formula dettata da D'Artagnan. «Tutti per uno, uno per tutti!» L'invenzione della trappola non risale ai nostri giorni. Da quando le società, via via che si formavano, ebbero inventato una polizia, questa, a sua volta, inventò le trappole. Ne venne appunto preparata una nell'alloggio di Padron Bonacieux, e tutti quelli che vi comparvero furono presi e interrogati dagli agenti del cardinale. Siccome un corridoio particolare conduceva al primo piano, abitato da D'Artagnan, inutile dire che i visitatori di quest'ultimo erano esenti da qualsiasi perquisizione. Egli non si muoveva mai di casa. Aveva trasformato la sua stanza in osservatorio. Dalle finestre si vedevano giungere coloro che venivano a farsi acchiappare. D'Artagnan aveva rimosso l'ammattonato e scavato l'impiantito, restando separato dalla camera sottostante dove si facevano gli interrogatori, solo dal soffitto. Poteva quindi sentire tutto il dialogo fra gli inquirenti e gli accusati. Gli interrogatori, preceduti da una minuziosa perquisizione del fermato, erano quasi sempre di questo tenore. «Madame Bonacieux vi ha consegnato qualcosa per suo marito o per qualcun altro?» «Monsieur Bonacieux vi ha consegnato qualcosa per sua moglie o per qualcun altro?» «L'una o l'altro vi hanno fatto a voce qualche confidenza?» «Se sapessero qualcosa non farebbero tante domande», disse a se stesso D'Artagnan. «E adesso che vogliono sapere? Se il duca di Buckingham si trovi o no a Parigi e se ha avuto o se deve avere qualche abboccamento con la regina?» D'Artagnan si soffermò su quell'idea che, da quanto aveva udito, risultava attendibile. Intanto la trappola funzionava in permanenza, così pure la vigilanza di D'Artagnan. L'indomani dell'arresto del povero Bonacieux, la sera, nel momento in cui allo scoccar delle 9 Athos aveva lasciato l'amico per recarsi da Monsieur de Tréville, si udì bussare al portone che subito si aprì e si richiuse. Qualcuno era venuto a cadere nella trappola. Con un balzo, D'Artagnan fu là dove il pavimento era stato rimosso e si sdraiò ventre a terra e ascoltò. Quasi subito echeggiarono delle grida, poi dei gemiti che si cercava di soffocare. D'interrogatorio neanche l'ombra. «Diavolo», disse tra sé D'Artagnan, «mi pare che sia una donna. La frugano, lei resiste, la violentano quei miserabili». E nonostante la sua prudenza, D'Artagnan si tratteneva a fatica dal partecipare alla scena che si svolgeva sotto di lui. «Ma vi dico che sono la padrona di casa, signori. Vi dico che sono Madame Bonacieux. Vi dico d'essere al servizio della regina!» esclamava la disgraziata donna. «Madame Bonacieux!» mormorò D'Artagnan. «È proprio voi che aspettavamo!» ripresero gli inquirenti. La voce divenne via via più soffocata. Un agitarsi tumultuoso fece tremare il rivestimento delle pareti. La vittima resisteva nel modo in cui può resistere una donna a 4 uomini. «La imbavagliano, la portano via!» esclamò D'Artagnan, scattando in piedi come una molla. «La mia spada, bene, ce l'ho a fianco. Planchet, signore, corri a cercare Athos, Porthos e Aramis. Che si armino, che vengano, corrano!» «Ma dove andate, signore? Dove andate? Scendo dalla finestra!» gridò D'Artagnan. «Per fare prima, tu rimetti a posto i mattoni, scopa il pavimento, esci dalla porta e corri dove ti ho detto!» «Ma signore, signore, vi ammazzerete!» gridò Planchet. «Zitto, imbecille!» disse D'Artagnan, e aggrappandosi con la mano al davanzale della finestra, si lasciò cadere dal primo piano, che per fortuna non era alto, senza la minima sgraffiatura. Corse immediatamente a bussare alla porta mormorando: «Vado a mia volta a ficcarmi in trappola, e guai ai gatti che se la prenderanno con un simile sorcio!» Non appena il battente ebbe riecheggiato sotto la mano del giovanotto, il tumulto cessò. Dei passi si avvicinarono, l'uscio si aprì e D'Artagnan, con la spada sguainata, si lanciò nell'appartamento di Bonacieux. Allora gli inquilini che ancora restavano nella disgraziata casa Bonacieux e gli abitanti più vicini udirono urla acute, strepiti, tintinnio di sciabole e un prolungato fracasso di mobili. Poi, un momento dopo, quelli che stupiti dal chiasso si erano affacciati alla finestra per conoscere il motivo, poterono vedere l'uscio riaprirsi e quattro uomini vestiti di nero non uscire, ma volare via come corvi spauriti, lasciando a terra e agli angoli dei tavoli le penne delle loro ali, ossia brandelli di abiti e lembi di mantelli. D'Artagnan era vittorioso con poca fatica, bisogna dirlo, perché uno solo degli sbirri era armato e per di più si difese tanto per salvare la forma. Vero è che gli altri tre avevano tentato di accoppare il giovanotto con le sedie, i panchetti e il vasellame, ma due o tre graffi della durlindana del guascone li avevano spaventati. Erano bastati 10 minuti per sconfiggerli e D'Artagnan era rimasto padrone del campo di battaglia. Rimasto solo con Madame Bonacieux, D'Artagnan si volse verso di lei. La poveretta era riversa su un seggiolone, semisvenuta. Il giovanotto gettò su di lei una rapida occhiata indagatrice. Era una donna graziosa, tra i 25 e i 26 anni, bruna, con gli occhi azzurri, il naso leggermente all'insù, dentatura splendida, un incarnato venato di rosa e d'opale. Qui però si fermavano i tratti che potevano farla scambiare per una gran dama. Le mani erano bianche, ma non delicate. I piedi non denotavano la donna di qualità. Per fortuna D'Artagnan non era ancora arrivato a preoccuparsi di quei particolari. Mentre inginocchiato davanti a Madame Bonacieux la contemplava, come abbiamo detto, egli vide a terra un leggero fazzoletto di batista. Lo raccolse, secondo il suo solito, e in un angolo riconobbe le stesse iniziali di quel fazzoletto che per poco non gli aveva causato uno scontro con Aramis. Da allora D'Artagnan diffidava dei fazzoletti con tanto di stemma, perciò in silenzio ripose quello che aveva raccolto nella tasca di Madame Bonacieux. Nello stesso momento ella riacquistava i sensi. Aprì gli occhi, si guardò intorno con terrore, vide che l'appartamento era sgombro e che era sola con il suo liberatore. «Ah, signore», disse, «siete stato voi a salvarmi. Permettete che vi ringrazi». «Signora», rispose D'Artagnan, «ho fatto soltanto ciò che qualsiasi gentiluomo avrebbe fatto al mio posto. Non mi dovete alcun ringraziamento». «Ma sì, signore». «Ma sì, e spero di provarvi che non avete reso servigio a un'ingrata. Ma cosa volevano da me quegli uomini, che in un primo momento avevo scambiato per dei ladri? E perché Monsieur Bonacieux non è qui?» «Signora, quegli uomini erano ben più pericolosi di semplici ladri, perché sono agenti del cardinale. E quanto a vostro marito, Monsieur Bonacieux, non è qui, perché ieri sono venuto a prenderlo per condurlo alla Bastiglia». «Mio marito alla Bastiglia!» esclamò Madame Bonacieux. «Oh, Dio mio, che ha mai fatto? Povero caro, lui, l'innocenza in persona!» E come l'ombra d'un sorriso trapelava sul volto ancora spaurito della giovane donna. «Che ha fatto, signora?» disse D'Artagnan. «Credo che il suo unico delitto sia di avere al tempo stesso la fortuna e la disgrazia di essere vostro marito». «Ma signore, allora voi sapete...» «So che siete stata rapita, signora». «E da chi? Lo sapete?» «Da un uomo sui 40-45 anni, coi capelli neri, la carnagione olivastra e una cicatrice alla tempia sinistra». «Sì, sì, è così. E mio marito sapeva che mi avevano rapita. Ne era stato avvertito da una lettera scrittagli dal rapitore stesso. E lui sospetta il motivo di questo rapimento», chiese un po' imbarazzata Madame Bonacieux. «L'attribuiva, credo, ha un motivo politico. Ma, continuò D'Artagnan, come siete fuggita? Ho approfittato d'un momento in cui mi hanno lasciata sola. Mi sono calata dalla finestra. Poi, siccome credevo che mio marito fosse a casa, mi sono precipitata qui. Come D'Artagnan aveva previsto, Athos non era in casa. Egli prese la chiave, che per abitudine gli veniva consegnata come un amico, salì le scale e introdusse Madame Bonacieux nell'appartamentino. «Siete in casa vostra», disse. «Aspettate, chiudete la porta dall'interno e non aprite a nessuno a meno che non sentiate picchiare tre colpi così, ecco». Due colpi ravvicinati l'uno all'altro e piuttosto forti, uno più distanziato e più leggero. «Benissimo», fece Madame Bonacieux. «Adesso tocca a me darvi le istruzioni. Ascolto. Presentatevi alla porticina del Louvre, dal lato di Rue de l'Echelle, e chiedete di Germain. Bene, poi? Vi chiederà che cosa desiderate, allora gli risponderete con due parole. Tours e Bruxelles. Si metterà immediatamente ai vostri ordini. E cosa gli ordinerò? Di andare a chiamare Monsieur de la Porte, il cameriere della regina. E quando sarà andato a chiamarlo e lui sarà venuto, me lo manderete. Bene, ma dove e come vi rivedrò? Ci tenete molto a rivedermi? Ma certo. Ebbene, per questo fidatevi di me e state tranquillo. D'Artagnan salutò Madame Bonacieux lanciandole l'occhiata più amorosa che gli riuscì di concentrare su quella seducente personcina. In due salti fu al Louvre. Quando infilò il passaggio delle Chelles, suonavano le 10. Tutte le peripezie che abbiamo raccontate si erano svolte in una mezz'ora. Tutto procedette come aveva preannunciato Madame Bonacieux. Alla parola d'ordine convenuta, Germain s'inchinò. 10 minuti dopo, la porta era nella portineria. In due parole, D'Artagnan lo mise al corrente e gli indicò dove si trovasse Madame Bonacieux. La porte si accertò 2 volte dell'esattezza dell'indirizzo e corse via. Però, fatta una decina di passi, tornò indietro. «Giovanotto», disse a D'Artagnan. «Potreste avere delle noie per quanto è successo. Credete? Sì. Avete qualche amico il cui pendolo ritardi? Perché? Andate da lui perché possa testimoniare che eravate in casa sua alle 9:30. In termini legali, questo si chiama un alibi». D'Artagnan trovò il consiglio prudente. Si prese le gambe in spalla e giunse da Monsieur de Tréville, ma invece di passare in sala con tutti gli altri, chiese di entrare nello studio. Monsieur de Tréville venne avvertito che il suo giovane compatriota sollecitava un'udienza particolare per comunicargli qualcosa di importante. 5 minuti dopo, Monsieur de Tréville chiedeva a D'Artagnan in che cosa potesse servirlo e a che dovesse la sua visita a un'ora così tarda. «Perdonate, signore», disse D'Artagnan, che aveva approfittato dell'attimo in cui era rimasto solo per mettere indietro l'orologio di 3/4 d'ora. «Ho pensato che, essendo soltanto le 9:25, potevo ancora presentarmi in casa vostra». «Le 9:25!» esclamò Monsieur de Tréville guardando il pendolo. «Ma è impossibile!» «Eppure guardate, signore, ecco là la prova». «Esatto. Avrei creduto che fosse più tardi. Ma su via, che volete da me?» D'Artagnan allora si dilungò assai sulla regina, esponendo a Monsieur de Tréville i suoi timori riguardo a sua maestà. Gli raccontò ciò che aveva sentito dire delle intenzioni del cardinale nei confronti di Buckingham. Alle 10:00, D'Artagnan lasciò a Monsieur de Tréville, il quale lo ringraziò delle informazioni, gli raccomandò di avere sempre a cuore il servizio del re e della regina e rientrò in sala. Ma in fondo alla scala D'Artagnan si ricordò di avere dimenticato il bastone. Perciò risalì a precipizio, rientrò nel gabinetto, con un giro di dito rimise il pendolo a posto, perché nessuno l'indomani potesse accorgersi che era stato spostato. E ormai sicuro di avere un testimonio per provare il suo alibi, scese la scala e si trovò subito in strada.